Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Scuola trovata l'intesa per l'assunzione dei docenti, avverrà il concorso dopo l'estate, nel frattempo si procederà con le graduatorie. Libertà di spostamento tra le regioni, il ministro Boccia dice se ci saranno ancora assembramenti come nel weekend dovremo sospendere la data del 3 giugno. Test sierologici a Campione su 150.000 persone, si parte da oggi, obiettivo conoscere in pochi giorni la diffusione del Covid in Italia. Fase 2, possibile da oggi tornare in palestra e piscine, ma la Lombardia aspetta fino a giugno. Serie A stavolta sembra fatta per la ripartenza del campionato, in campo alla metà di giugno. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, giornata caratterizzata dall'avvio del campionamento dei test sierologici su 150.000 persone con tre settimane di ritardo, a dire la verità, sull'iniziale annuncio del commissario Arcuri, ma si tratta pur sempre dell'avvio di uno dei pilastri che erano stati definiti fondamentali per questa fase 2. Ne parleremo tra poco, prima le notizie che riguardano un altro settore chiave, che è quello della scuola, che ancora aspetta tempi e modi per la ripartenza. Intanto però si sanno già le cifre e le modalità di assunzione dei nuovi docenti. Dare stabilità garantendo merito, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina rilancia sulla scia dell'accordo raggiunto nella notte sui precari. Abbiamo 78.000 insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo fra concorsi ordinari e concorso straordinario, dice. Ora bisogna chiudere il decreto scuola per dare risposte alle famiglie. Infatti l'accordo raggiunto è una mediazione. Il concorso straordinario per precari da almeno 3 anni ci sarà, ma dopo l'estate, e non sarà più a crocette. Ci sarà una prova scritta con consegna di un elaborato. Nel frattempo i 32.000 docenti di scuola media superiore entreranno in cattedra a tempo determinato direttamente dalle graduatorie dell'istituto, ma non sposta i numeri rispetto ai decreti precedenti, secondo Manuela Pascarella, responsabile del precariato e reclutamento docenti FLC-CGL. Non incide sui numeri che erano già fissati, non raggiunge l'obiettivo principale, visto che ci sono 200.000 cattedre scoperte, di ripartire a settembre dopo 3 mesi di sospensione della didattica. Di fatto le assunzioni non ci sono. Regole stringenti per gli alunni che torneranno in banchi a distanza di 1 metro, con mascherine obbligatorie in tutte le classi, dalla primaria alle superiori, via solo per le interrogazioni, a 2 metri. Igienizzante, niente guanti, le mense con regole della ristorazione, ingressi a scuola a orari scaglionati e a piccoli gruppi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di scuola parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, sarà in nostra compagnia la vice ministra all'istruzione Anna Ascani, alla quale dunque chiederemo sia per quanto riguarda i concorsi per l'assunzione di questi 78.000 docenti, sia per quanto riguarda le indiscrezioni che fin qua ci sono state sul lavoro fatto dalla commissione richiesta proprio dal MIUR per stabilire le linee guida, famose linee guida per tornare a scuola. In che modo, sentivamo nel servizio, distanziamento, mascherine sembrerebbe obbligatorio, ma non è ancora chiaro se potranno tornare tutti in presenza o se ci saranno dei turni. Adesso invece, dopo le proteste dei sindaci e dei presidenti di regione per quello che si è visto nel weekend, cioè alcuni eccessi nel fine settimana dovuti ad assembramenti di persone, soprattutto in occasione di ritrovi serali davanti ai locali, il ministro per gli affari regionali Boccia anticipa che il governo potrebbe fare marcia indietro sulla riapertura degli spostamenti tra le regioni inizialmente fissata per il 3 giugno. E al via da oggi il campionamento, dicevamo, il campionamento nazionale dei test sierologici su 150.000 persone. L'obiettivo è conoscere la diffusione del virus in Italia. Quante persone in Italia hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus? Quanto è estesa l'infezione nella popolazione? Ci sono differenze per sesso, età, regione di appartenenza e attività economica? Per capire tutto questo, ma soprattutto per modulare poi le misure di prevenzione e contenimento del contagio, parte oggi una vasta indagine epidemiologica su scala nazionale attraverso dei test sierologici su un campione di 150.000 persone distribuite in 2.000 comuni italiani. La partecipazione è su base volontaria. Chi viene selezionato e accetta di partecipare farà il prelievo del sangue, la regione comunicherà l'esito. In caso di diagnosi positiva, l'interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e gli verrà fatto il tampone. L'indagine è firmata Ministero della Salute e Istat in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Il responsabile salute Michele Bonizzi. Le persone sono scelte da Istat, i nostri volontari contattano i nostri concittadini proponendogli di partecipare allo studio. È un questionario che dura circa una decina di minuti al telefono. Abbiamo cominciato questa mattina alle 9:30, stiamo chiamando, la risposta è buona, stiamo già prendendo i primi appuntamenti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora allarghiamo lo sguardo all'andamento dell'epidemia di coronavirus nel mondo. Cala il numero di nuovi decessi negli Stati Uniti, fortunatamente, ma questo numero sta aumentando invece in Sud America e in Russia. In Russia sono stati superati 350.000 casi accertati di Covid-19, quasi 9.000 i nuovi contagi solo nelle ultime 24 ore. Ancora pesante il bilancio in America Latina, dove i morti nelle ultime ore sono stati 1.200, 734.988 in tutto i contagi. Lo stato più colpito resta il Brasile, con 22.600 vittime, tanto che gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare gli ingressi dal paese ai non americani. Qui sono state di meno degli ultimi giorni le vittime, nelle ultime ore 638. E il presidente Trump auspica che presto si aprano le scuole. Il Giappone invece ha messo fine allo stato di emergenza. 16.581 i casi registrati finora, 830 i morti. Da Bangkok rientro in Italia per 160 connazionali bloccati in Thailandia a causa dell'emergenza sanitaria. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora con la cronaca torniamo in Italia e cambiamo anche argomento, perché ci vogliamo occupare dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto. Oggi un incontro tra il governo e la proprietà subentrante ArcelorMittal per affrontare la delicata fase attuale, perché a contenzioso legale, come ricorderete, sulla gestione dell'acciaieria pre-Covid si è aggiunta la crisi di questa difficile fase economica, tanto che molti pensano che l'addio del nuovo investitore sia alle porte. Due passaggi importanti oggi per la crisi dell'azienda siderurgica ArcelorMittal. È in corso in audio-video conferenza l'incontro tra ArcelorMittal, il governo e i sindacati metalmeccanici. Lo hanno chiesto gli stessi sindacati all'esecutivo perché la situazione di ArcelorMittal è giunta ad un punto limite. Tra aumento di cassa integrazione, impianti fermi tra Taranto e Genova, lavori di risanamento ambientale bloccati. Anche lo stesso governo vede ormai a forte rischio la prosecuzione della gestione ArcelorMittal e parla senza mezzi termini di evidenti segnali di disimpegno della multinazionale. Quest'ultima, tra l'altro, non ha presentato alla proprietà Ilva il nuovo piano industriale e non ha pagato l'ultima rata del canone di fitto, benché dimezzata. Ma oggi c'è anche lo sciopero dei sindacati in tutta ArcelorMittal. Sono 4 ore di sciopero che a Taranto sono state raddoppiate e divise nella parte finale del primo e secondo turno. Obiettivo sindacale è mandare un segnale forte al governo e dire che la gestione ArcelorMittal va ormai definitivamente chiusa. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. Restiamo al sud, ci sono nuove truffe ai danni dello Stato da parte di percettori del reddito di cittadinanza nel Regino. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno infatti scoperto 18 truffatori, tra questi c'era anche la moglie di un boss in carcere, 41 bis. Sono 18 i furbetti del reddito di cittadinanza scoperti grazie ad un blitz dei carabinieri della compagnia di Taurianova in provincia di Reggio Calabria attraverso l'operazione Diche. A percepire indebitamente il sussidio non solo cittadini che svolgevano lavoro in nero in bar, ristoranti o cantieri edili, ma anche la moglie di un boss al 41 bis, così come il gestore di un'officina meccanica del tutto abusiva e il proprietario di un salone di parrucchiere che, oltre a lavorare regolarmente, aveva formalmente chiuso l'attività 4 anni fa. Un'altra persona invece, nota per i suoi precedenti, non solo ha falsificato il reale domicilio, ma negli atti compilati ha indicato come residenza un rudere fatiscente e in stato di abbandono. L'erogazione del sussidio ha provocato un danno erariale da oltre 50.000 euro, ma è stata subito interrotta dall'INPS. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono novità in arrivo anche per l'uso del contante, che è novità che sto, c'è ancora un po' di tempo, però insomma sono in arrivo, ci siamo allontanati da questo tipo di problematiche negli ultimi mesi, presi come eravamo dal lockdown, ma insomma dal 1 luglio novità in arrivo per l'uso del contante. Tra poco più di un mese, il 1° luglio, si abbasserà da 3.000 a 2.000 euro la soglia a partire dalla quale è vietato trasferire denaro contante. Dalla stessa data scatterà il credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l'uso del POS. Nessuna sanzione, invece, per chi non ha o non utilizza il POS. Le norme della manovra di bilancio per il 2020 diventeranno operative nel pieno della fase 2, in un momento in cui l'emergenza coronavirus ha dato una forte spinta ai servizi digitali, compresi quelli di pagamento, assecondando così la strategia di contrasto al contante già lanciata dal governo. Gli ultimi dati di Banca Italia confermano che nel 2019 sono cresciuti ancora i POS installati e i pagamenti con le carte, anche se in controvalore pesano solo per l'1,6% delle transazioni con canali bancari alternativi al contante. La tendenza comunque è in crescita e secondo i dati del circuito Pago Bancomat le transazioni aumentavano a doppia cifra anche a gennaio e febbraio, prima che la serrata facesse crollare i consumi, un fenomeno al quale nelle ultime settimane si è aggiunta la crescita dei pagamenti tramite app e cellulare, che non richiedono neppure l'uso di una carta. A tutti gli effetti, la nuova frontiera della lotta al contante. Cristiano Dell'Oste, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo la ripresa, insomma, di tante attività, forse c'è luce anche in fondo al tunnel del calcio, del campionato di calcio. Oggi si annuncia, anzi non oggi, in settimana un nuovo vertice, l'ennesimo vertice decisivo. Forse decisivo non sarà, Carlo Genta, però all'orizzonte si intravedono delle date, vero Carlo? Sarà decisivo perché il 28 maggio, il giovedì, dovrebbe essere comunicata, anzi sarà comunicata la data di ripresa del campionato, che sia il 13 o che sia il 20, ancora non c'è certezza appunto su questo, però ormai l'ha confermato lo stesso ministro Spadafora, si viaggia spediti in quella direzione. D'altra parte, Bundesliga, come sappiamo, sta già giocando, ha già disputato due giornate e domani tra domani e dopo la terza giornata dopo questa ripresa, con grandi dati d'ascolto. In Spagna, e poi ne parleremo, i primi di giugno, verso l'8 giugno, ripartirà la Liga e insieme al campionato italiano dovrebbe partire anche la Premier, che oggi, è notizia di attualità che approfondiremo, Premier che torna agli allenamenti di gruppo, agli allenamenti normali sul campo, cosa che in Italia si fa già da qualche giorno. Questo è la fotografia dell'Europa. La Francia è ferma e in questo momento si sta lamentando a gran voce perché ci sono diversi problemi, non solo economici. Grazie Carlo Genta. E poi naturalmente tutto questo sarà da misurare anche alla prova dei fatti. I tedeschi sono un po' più avanti con il campionato di calcio, l'Italia ci sta riprovando, vedremo se appunto si raggiungerà un equilibrio. Tutti appuntamenti, tutti i temi per l'appuntamento di tutti i convocati dopo il giro delle 14. Noi adesso facciamo invece una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dal vice ministro dell'istruzione Anna Ascani per commentare l'accordo raggiunto sulla modalità di assunzione di 78.000 docenti, quasi tutti per la scuola secondaria. Era atteso, ma insomma ci sarà un concorso per tutti. Nel frattempo si procederà a estrarre dalle graduatorie e poi il punto fondamentale sarà capire, cercheremo di farlo insieme al vice ministro, se queste nuove assunzioni serviranno a creare classi un po' meno pollaio, perché il problema, lo sappiamo, è concentrato soprattutto alle superiori, dove i limiti attuali, la riforma Gelmini in avanti, sono tra 27 e 30 alunni per classe, tanti, troppi sicuramente per gestire questa fase anche dal punto di vista sanitario. Chiederemo indiscrezioni anche sul lavoro, forse giunto al termine del famoso comitato convocato dalla ministra Azzolina. 349-238-6666. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Libertà di spostamento tra le regioni boccia. Se ci saranno assembramenti come nel weekend, siamo pronti a sospendere la data del 3 giugno. Test sierologici a Campione su 150.000 persone. Si parte oggi. Fase 2, riaprono palestre e piscine, ma la Lombardia aspetta fino a giugno. Scuola, trovata l'intesa per l'assunzione di 78.000 docenti, avverrà per concorso dopo l'estate. Nel frattempo si procederà con le graduatorie. Ne parliamo tra poco col vice ministro Ascani. Serie A, stavolta sembra fatta per la ripartenza del campionato, in campo alla metà di giugno. 13:16 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Questi che avete sentito erano i titoli di oggi, quindi come anticipato salutiamo e con noi la vice ministra dell'istruzione Anna Ascani. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito a commentare a caldo l'accordo raggiunto per quanto riguarda l'interno della maggioranza, per quanto riguarda qualche cosa che era già nelle more, era già atteso, cioè parliamo della assunzione, 78.000 docenti tra stabilizzazione precaria e nuove assunzioni. Il punto del contendere era la modalità di assunzione. Intanto è giusta la cifra 78.000? Allora, 78.000 è la cifra complessiva. In realtà noi ne assumiamo 32.000 da concorso straordinario, altri 32.000 da concorso ordinario, parliamo di scuola secondaria e il resto è primaria e infanzia. Quindi diciamo la parte straordinaria, per capire, la parte straordinaria sono 32.000 delle scuole superiori, questi sono gli straordinari. Secondaria, sì. E gli altri invece diciamo erano quelli già in qualche modo previsti. Le modalità di assunzione, che accordo avete raggiunto? Perché il tema è molto importante. Abbiamo trovato una mediazione tra diversi punti di partenza, ci tengo a dire che per quello che riguarda la mia parte politica, nonostante le ricostruzioni, nessuno aveva mai chiesto una sanatoria, era chiesto soltanto di evitare il concorso lotteria crocette fatto in estate, peraltro in piena pandemia, che insomma avrebbe sicuramente creato dei problemi. E la mediazione a cui si è arrivati è che il concorso si farà, come giusto che sia, si farà però non appena la pandemia lo renderà possibile, quindi sicuramente dopo l'estate, che sarà una prova scritta e che coloro che passeranno questa prova scritta, che verrà valutata insieme ai titoli e servizio, verranno effettivamente assunti sui 32.000 posti disponibili. Nel frattempo assumiamo da graduatorie provinciali, che era l'altra disposizione che era saltata all'inizio nel decreto e che invece rientra grazie a un emendamento della maggioranza, una cosa che aspettano quasi 1 milione di persone, non soltanto i precari che hanno più di 36 mesi. Senta, ma quindi se ho capito bene, i 32.000 nuovi assunti faranno solo una prova scritta, non ci sarà un colloquio orale? Non ci sarà, perché questo è appunto un concorso straordinario, mentre le modalità del concorso ordinario prevedono normalmente preselettiva, scritto e orale. Non ci sarà perché avere anche un orale significherebbe far slittare di troppo le assunzioni. Noi sappiamo che mediamente concorsi che prevedono due prove richiedono 10-12 mesi di tempo per lo svolgimento e questo significherebbe di fatto aggiungere 2 anni ancora prima di arrivare alle assunzioni. Senta, uno degli obiettivi, forse l'obiettivo principale soprattutto di queste assunzioni straordinarie, era anche proprio quello di migliorare il rapporto tra numero di alunni e docenti in classe, diminuire le cosiddette classi pollaio, un problema che si concentra soprattutto nella scuola secondaria, dove voi siete intervenuti in queste 32.000 assunzioni straordinarie. I sindacati però, li abbiamo sentiti questa mattina, è già andata in onda l'intervista nei nostri giornali radio, dicono che ci sono però 200.000 posti già a rischio, vacanti per pensionamenti, quota 100 e altre uscite, e che quindi queste nuove assunzioni, come dire, bastano a malapena a compensare quelli che escono, ma non si riuscirà a invertire come dire, la rotta delle classi pollaio. Lei come commenta questa affermazione? Allora, io credo che quest'anno il numero di alunni per classe dovrà essere necessariamente più basso e che a questo si dovrà arrivare attraverso quello che in gergo tecnico si chiama organico di fatto, cioè aggiungendo a quelli che hanno posti a tempo indeterminato tutti i contratti a tempo determinato che servono a garantire un numero di alunni per classe che sia compatibile con la condizione nella quale ci troviamo. Quello che noi abbiamo ottenuto, i sindacati lo sanno benissimo, è un'inversione importante invece, perché le disposizioni normative prevedono che, visto l'andamento demografico, in realtà l'organico della scuola debba andare a calare. Questo è scritto nelle norme. Noi abbiamo ottenuto che cresca e che cresca non solo dei 24.000 più 24.000 che erano previsti nella legge di dicembre, ma di altri 16.000 posti. Per cui penso che i passi in avanti siano notevoli, importanti, ma non bisogna mescolare le due cose, cioè il numero di alunni per classe non è dato dal numero di assunzioni che noi faremo in questo modo, è dato dal complesso dell'organico, che è fatto di due parti, quelli assunti a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato. Quest'anno con grande probabilità noi avremo bisogno di molti più docenti a tempo determinato, perché dobbiamo sdoppiare le classi. Nel momento in cui torneremo a una condizione di normalità, ovviamente la situazione sarà diversa. Ecco, ma per fare un esempio, no? Il limite attuale, che se non sbaglio è 27-30, minimo 27, massimo 30 per le secondarie, no? Per le superiori, lei lo ritiene corretto? Pensa che sia... Non è certamente compatibile con le condizioni della pandemia, quindi è evidente che in quest'anno straordinario in ogni caso questi numeri andranno rivisti. Dopodiché c'è un dibattito in Parlamento, io personalmente penso che sia giunto il momento di rivedere in generale il numero di alunni. Classe. Non mi piace l'espressione classe pollaio, perché gli alunni, anche quando sono tanti, non sono polli. Sì, è una brutta espressione, certo, serve per spiegarsi, insomma. Però ma da quel che ho capito, cioè, in questa fase potremmo arrivare a non avere delle classi sovraffollate, diciamo così. Esatto. Diminuendo in qualche modo il numero di persone per classe, ma non certo aumentando il numero di insegnanti, perché questo non si riesce a fare con queste assunzioni e non è previsto, perché il calo demografico, voi dite, fa sì che non c'è un piano di assunzioni per la scuola. Allora, ho detto esattamente il contrario, quindi evidentemente mi sono spiegata male io. Allora, noi comunque abbiamo previsto di fare 78.000 assunzioni in deroga rispetto a quanto era previsto prima, e cioè che invece non si dovesse assumere se non per turnover. Diciamo. Noi invece assumiamo 78.000 persone in più. Questo però non è la sola cosa che noi faremo per fare in modo che i numeri degli studenti per classe calino. Noi a settembre dovremo assumere molte persone a tempo determinato, perché avremo bisogno di smezzare le classi per ridurre i numeri. Quindi le assunzioni ci saranno e ce ne saranno molte di più degli scorsi anni. Allora, è vero che nel decreto rilancio, mi perdoni, un miliardo è destinato proprio a questo. Ecco, allora noi quel miliardo ce lo siamo fatti dare per questa ragione. Ci spiega, perché sono uscite delle indiscrezioni già sulle diciamo sul lavoro del comitato convocato dal ministro Azzolina, che è diverso da tutti gli altri comitati e che avrebbe dovuto, se ho capito bene, ha già rilasciato le sue linee guida. È giusto intanto questo? Il comitato ha finito il suo lavoro? Ha finito gran parte del suo lavoro, ma sta aspettando dal comitato tecnico scientifico, che oggi si riunisce con all'ordine del giorno proprio la scuola, i parametri fondamentali, ne dico uno per tutti: il numero di metri quadri a studente. Ok, quindi il comitato per noi è piuttosto importante. Ha fatto il suo lavoro, adesso aspetta un feedback, deve chiudere il lavoro, poi il lavoro lo chiuderà la parte politica, il ministero? Poi la chiuderà comunque la politica. Io sono un'affezionata all'idea che alla fine le decisioni le prenda la politica, anche perché noi abbiamo bisogno di una relazione con gli enti locali. Io ho riunito la cabina di regia con gli enti locali la scorsa settimana, siamo rimasti con loro, che appena in possesso di queste linee guida ne avremmo discusse con loro per verificarne la fattibilità e quindi andare a vedere gli spazi che i comuni hanno a disposizione, eccetera, eccetera. Quindi in questo momento cosa ci può dire di come si dovrebbe rientrare a scuola? Perché abbiamo letto, distanza di 2 metri tra i banchi, potrà essere 1,80 metri, 2 metri, comunque banchi distanziati, questo ce lo immaginavamo. Mascherina obbligatoria, anche qui vedremo, in Germania sembra che riescono a farne a meno, se non nei momenti di ingresso e di uscita dalla scuola. Però mascherine obbligatorie, ma la presenza in classe, avete trovato una quadra per far stare tutti a scuola o ancora no? Allora, l'obiettivo è naturalmente quello di limitare al minimo la didattica a distanza, per le ragioni che sappiamo, perché evidentemente ha generato un vulnus pur avendo tamponato l'emergenza. Noi vogliamo che in particolare gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado facciano scuola tutti in presenza, anche ampliando il curriculum. Io ho parlato di musica, arte, laboratori, coding, eccetera, eccetera. Per la secondaria di secondo grado il ragionamento è un po' più complesso, però anche lì stiamo lavorando comunque per limitare al minimo la didattica a distanza. È vero che ha funzionato un po' meglio per i più grandi, però comunque ha delle carenze fondamentali, per cui... Ma quando lei dice, Vice Ministro, quando lei dice limitarla il più possibile, intende che è anche possibile che non si faccia per niente ricorso a questa didattica a distanza? Sì, è anche possibile, naturalmente questo dipende A, dagli spazi, e questo è il problema principale, perché purtroppo noi abbiamo un tema di dover di fatto dimezzare le classi e quindi moltiplicare gli spazi. Quindi potrebbe esserci una differenza tra scuola e scuola da questo punto di vista? No, tra ordini di scuola, no. Ovviamente sarà uniforme su tutto il territorio nazionale, quello che si fa alla primaria, quello che si fa alle secondarie, quindi, del primo grado. Se ho capito bene, scuole medie quasi sicuramente in classe, in presenza, superiori c'è qualche punto ancora da capire. Superiori c'è ancora di tutte le cose da sciogliere, perché non è semplicissimo trovare per tutti gli ordini di scuola degli spazi aggiuntivi. Noi abbiamo le risorse per il personale e anche per l'edilizia leggera, però in 3 mesi non è semplicissimo l'adeguamento. Comunque il nostro obiettivo è esattamente questo, ridurla il più possibile, magari fino a riuscire ad evitarla. Grazie Vice Ministro Ascani, grazie. Okay. Grazie per essere stata con noi. E questo dunque è lo stato dell'arte. Oggi, lunedì 25 maggio, è tanto, è poco, troppo poco. Vedremo, insomma, è qualcosa che si comincia a capire. Lasciamo spazio ai commenti, magari nella seconda parte di Effetto Giorno, quando inseriremo i messaggi al 349-238-6666. Adesso invece ci concentriamo su un'altra riapertura, da oggi, riguarda piscine e palestre. Alessandro Arona. Palestre e piscine riaperte oggi in tutta Italia, salvo la Lombardia, dove partiranno non prima del 1 giugno. Utenti già in fila questa mattina davanti ai centri sportivi di Roma. Felice? Assolutamente. Siete in forma? Sì. Sì, sì, sì. Come ha fatto? Tutte le lezioni che abbiamo fatto. Perché loro sono stati molto presenti, devo dire. Ci hanno proposto un sacco di lezioni online. Io mi sono allenata tutti i giorni, andato a correre, però certo, la palestra è la palestra. Ci dobbiamo abituare a queste nuove, diciamo, normative, però bene, bene. Speriamo di farcela, perché l'allenamento in questi 3 mesi ha scarseggiato, quindi il fiato forse non c'è. È un po' seccante questa cosa che dobbiamo pulire gli attrezzi ogni volta che li utilizziamo, ecco. È un pochino complicato quando uno è abituato dopo tantissimi anni ad avere una certa libertà. Io ho i miei 81 anni, quindi un'ora e mezza al cardio è molto poco. Sono Paolo Gentile, sono responsabile tecnico dello Sporting Pala Sigonio. La lezione di 30 persone, io comunque ho deciso di mettere 15 persone massimo, una distanza di 2,5 metri a 3 metri, e per il momento siamo in massimo a 6 persone per lezione. Com'è in piscina ho visto adesso uno per corsia e adesso stiamo aspettando l'acqua gym che ci darà un altro numerico, però anche lì nettamente inferiori, siamo quindi oltre il 50%. Noi abbiamo congelato alla data gli abbonamenti, alla data della chiusura imposta, e adesso quei mesi che siamo stati chiusi verranno messi in coda sull'abbonamento. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è il messaggio immancabile al 349-238-6666. Questo ascoltatore dice: divento matto, le scuole stanno chiuse e aprono le piscine e le palestre. E va bene, benvenuto in compagnia di chi da tempo cerca di sensibilizzare sul fatto di che si riaprano queste benedette scuole. Ma insomma, le notizie ve le abbiamo appena date, del resto si sa, fine di settembre non se ne parla, toccherà forse con un pochino più di coraggio a partire dal 15 giugno per i centri estivi che riguardano quelli sotto 6 anni. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste notizie di oggi: scuola ok al concorso per l'assunzione di 78.000 docenti, il viceministro Ascani a Radio 24, a settembre sicuramente tutti in classe, elementari e medie. Libertà di spostamento tra regioni, Boccia avverte se ci saranno assembramenti come nel weekend, sospendiamo la data del 3 giugno. Test sierologici a Campione su 150.000 persone, si parte oggi. Serie A stavolta sembra fatta per la ripartenza del campionato in campo dalla metà di giugno. 13.34, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi velocemente al 349-238-6666. Enrico da Cittadella scrive: esami, a proposito del concorso per gli insegnanti, esami solo scritti per fare in fretta è un metodo per avallare pericolose porcherie, dice. Una espressione non elegantissima ma efficace, si rischia di mettere in ruolo gente poco selezionata. Devo dire, anch'io ho fatto la domanda sull'esame orale all'Ascani, perché anche io trovo che l'esame orale sia indispensabile per assumere gli insegnanti, specialmente se, come abbiamo capito, la straordinarietà viene meno, perché non serviranno a diminuire il rapporto tra alunni e insegnanti, perché quello è un tema troppo grande da affrontare con queste 16.000 assunzioni. Poi ancora, In Francia le scuole sono state chiuse solo un mese e mezzo. È vero, e aggiungo anche che non sono mai state chiuse per i figli degli infermieri, dei medici, di quelli della protezione civile, eccetera, eccetera, eccetera. Molto scetticismo, vedo nei vostri messaggi, ancora uno al volo. Se non si danno una mossa, a settembre non inizieremo sicuramente la scuola. Il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. No, non può essere un lavoro quello di dire alle persone di stare un po' più lontane dal dirimpettaio, di rispettare il metro di distanziamento sociale. Eppure sarà il lavoro di ben 60.000 assistenti civici che gireranno per le nostre città con pettorina blu per evitare assembramenti. Un'ennesima riprova della deriva assistenzialista dell'Italia post-Covid. C'era davvero bisogno di avere un bando per 60.000 ingressi nella PA? Non bastavano i navigator a smistare in quei ruoli, ammesso che abbiano senso, i percettori di reddito di cittadinanza? Invece ci sarà un bando della protezione civile che parla di volontari e quindi di un compito senza retribuzione, ma intanto apre un pertugio per l'ingresso nella già sovrabbondante famiglia del pubblico impiego. In realtà doveva essere l'esercito degli angeli da usare nella fase del lockdown per consegnare la spesa o le medicine agli anziani. Ora diventeranno dei distanziatori umani senza alcun potere se non quello del loro sorriso e della loro educazione. C'è qualcosa che non torna. Il reddito di cittadinanza, innanzitutto, ma non funziona nemmeno un paese in cui gli abitanti non sono in grado di tenersi a distanza gli uni dagli altri. E allora è giusto che chi sta al potere ci tratti come bambini scemi.